con questa vita da precario, poi di fretta quel caffè amaro e al solito binario. Ma guarda quanto piove, ci sei tu. Che tardi sorge il sole, il tram 56, per un misero salario, poi costretti come pecore al solito orario. Ci sei tu, ci sei tu, sei tu nei fuori, sei tu che muori, sei tu nei guai con il tuo domani. Mare della vita, mare della vita, mare della vita, va di qua e di là. Riesco più a insegnare per finire quel programma che non servirà a campare. Starà in fila per entrare. Un contratto che ti scade e a Roma 26. Un panino e il giornale per vedere quest'altro anno dove andare a lavorare. Un macchiato o normale, ci sei tu. Io non so che cosa dire, sei tu lì fuori, sei tu che muori, sei tu nei guai con il tuo domani. Mare della vita, mare della vita, mare della vita, va di qua e di là.